Libia, tutto o quasi e tutti o quasi pronti per la conferenza di Berlino. Ma servirà davvero a qualcosa? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The focus moves from Moscow to Berlin. German Chancellor Angela Merkel has invited top officials from a host of countries for peace talks on Sunday. People want to get back to their regular everyday life where there is only peace and not war. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un buon venerdì da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Ve lo ricordo che con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani che è in regia. (349) 238 6666 il numero per fare commenti e porre domande sul grande tema di quest'oggi. Mancano poche ore alla conferenza di Berlino e la conferenza che potrebbe riscrivere una nuova pagina per la Libia, per questo importante paese nordafricano, oppure potrebbe far naufragare nel nulla gli intensi sforzi diplomatici, soprattutto europei, delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Su questo vi invito a commentare, lo potete fare non soltanto via WhatsApp ed SMS, ma anche su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Come ogni giorno, anche se è venerdì, andiamo a misurare la temperatura. Oggi era il giorno del sermone pubblico di Ali Khamenei, la guida spirituale iraniana. Era 8 anni che non succedeva. Normalmente nella recente storia iraniana accade quando vi sono momenti particolarmente tesi nella storia del paese, e così è stato. Lo ricorderete dopo l'uccisione, l'assassinio del generale Qasem Soleimani, poi la risposta iraniana, risposta quasi con i guanti, benché sia arrivata oggi la notizia di alcuni feriti americani durante l'attacco a una delle due basi in Iraq, dicevo, e poi quelle proteste che sono continuate. Si è trasformato l'abbraccio comune iraniano per la morte di Soleimani in qualcosa di diverso dopo l'abbattimento per errore del Boeing ucraino. Direi di iniziare proprio ascoltando la voce di Ali Khamenei. Sentite. In dalgakhay amerikayi che be durugh. In questo passaggio del lungo sermone, Khamenei dice che gli americani sono dei pagliacci che fingono di sostenere il popolo iraniano, ma poi lo colpiscono alle spalle con le loro bugie e l'odio più totale. Dovrebbero vedere chi è veramente il popolo iraniano. Lo diceva, era la prima volta dal 2012 che Ali Khamenei guidava la preghiera del venerdì. Siamo in una moschea di Teheran, migliaia e migliaia di persone, pasdaran schierati, soprattutto per evitare anche quegli incidenti nella calca, ricordate, durante il funerale, le lunghe esequie del generale Qasem Soleimani, dove vi erano stati appunto morti e feriti proprio per quel motivo. Allora, dicevo del passaggio anche riferito all'incidente dell'abbattimento del Boeing ucraino. Sentite cosa dice. Con le loro televisioni e radio, americani e inglesi hanno manipolato l'opinione delle persone pensando che così si sarebbe dimenticato il delitto che loro hanno commesso, e qua si sta riferendo a Soleimani. Insomma, se qualcuno si aspettava, come dire, un sermone particolarmente rivoluzionario, non è una battuta la mia evidentemente, rivoluzionario nei toni, nei temi, questo non vi è stato, perché è stata usata da parte della guida spiritale la solita retorica anti-occidentale, soprattutto anti-americana, ma anche anti-israeliana, come avete sentito anche dal GR, quando a un certo punto Ali Khamenei dice che le grandi potenze hanno piazzato con Israele un tumore nel Medio Oriente. Insomma, niente di nuovo, se non fosse che ha speso, e qua diciamo la novità sta nella sottrazione di contenuti e di concetti, ha speso davvero poche parole per come dire, rivolgere un abbraccio ai familiari delle vittime colpite appunto per errore proprio dalle forze di sicurezza iraniane. Naturalmente aspetteremo eventuali reazioni da parte israeliana e da parte statunitense dopo questo storico, lo ripeto, sermone di Ali Khamenei. L'altra notizia interessante ci porta in Ucraina, proprio nelle ore in cui si sta aprendo l'atto secondo dell'impeachment di Trump, che è tutto legato evidentemente, almeno territorialmente, anche alle questioni ucraine. Ebbene, il primo ministro ucraino Oleksiy Onchaluk ha presentato una lettera di dimissioni al presidente Zelensky. Perché? Perché poche ore prima sarebbero state diffuse delle registrazioni online in cui lo stesso primo ministro dà dell'incompetente in campo economico al presidente Zelensky. Ora, ammesso e concesso che, come dire, da uno showman, un ex comico, personaggio televisivo piuttosto noto, non ci si attendono magari ferrate competenze economiche, è chiaro che dal punto di vista strettamente politico è una gaffa di quelle quasi imperdonabili, tanto che Zelensky ha detto: valuterò le dimissioni. Questo è il breve termometro di questo venerdì. Adesso però è arrivato il momento di sentire il nostro primo ospite, è il vice ministro degli esteri italiano Marina Sereni. Vice ministro Sereni, buongiorno, grazie mille per essere con noi. Andiamo dritti al punto, la conferenza di Berlino è ormai alle porte, mancano alcune ore, potrebbe essere un successo se confermata come sembra la presenza di Haftar e Sarraj, ma non è un po' troppo tardi? Ma il primo dato che rileverei è la presenza di tutti i protagonisti internazionali di questa vicenda a livelli molto alti, quindi ci sono leader, capi di Stato, capi di governo, ministri degli esteri, un livello molto autorevole per quanto riguarda tutti i paesi della comunità internazionale, e lo considero questo un punto importante perché la conferenza di Berlino doveva servire, deve servire ad impegnare tutti i paesi interessati e coinvolti nella consolidare la tregua, consolidare il cessate il fuoco. Sì. E certo è importante che vengano anche i due, diciamo, le due parti principali, Sarraj e Haftar. Vedremo, perché ancora nelle prossime ore si tratterà di lavorare con entrambe le parti, in particolar modo con il generale Haftar, perché l'impegno alla tregua venga appunto consolidato nella giornata di Berlino e si prendano degli impegni concreti per il futuro, e cioè per la riapertura di un dialogo intralibico. Sì. Il mio riferimento alla tempistica, al fatto di dire non è troppo tardi, fa riferimento alle posizioni sul terreno. Haftar ha iniziato la sua offensiva in aprile, è veramente alle porte di Tripoli, ha preso Sirte, in questo senso dicevo sarà difficile convincerlo ad arretrare, certo. No? Questo può darsi, questo può essere certamente un punto di difficoltà, anzi la situazione è molto deteriorata sul terreno. Voglio segnalare, oltre alle posizioni sul terreno, che dopo 9 mesi di combattimenti non c'è un buon clima, diciamo, ecco. Le persone, le popolazioni, le tribù, le milizie, cioè si è accumulato dolore, sofferenza e odio. Io voglio ricordare che ci sono tanti civili coinvolti, noi abbiamo recentemente accolto dei bambini libici che si stanno curando a Roma per malattie serie. Beh, insomma, dobbiamo pensare anche ai libici, alle persone, cioè a quelli che non sparano. Certo. E quindi, detto questo, certo, la situazione sul terreno è molto deteriorata, però se dopo 9 mesi non è ancora stato possibile per nessuna delle parti sopraffare l'altra, nonostante i supporti dall'esterno, nonostante che molti abbiano fatto arrivare uomini e mezzi in sostegno dei combattimenti, penso che sia evidente quello che noi sosteniamo dall'inizio, e cioè che non c'è una soluzione militare credibile per la Libia, che l'unica soluzione credibile è di nuovo il dialogo politico, che significa anche l'inclusione di tutte le parti, certamente. Ecco, qua Vice Ministro forse tocchiamo il punto fondamentale, perché a Berlino si parlerà, se le cose vanno bene, facciamo i debiti scongiuri ovviamente, diplomatici, sì, con Haftar e con Sarraj, ma non con le singole milizie, con le singole tribù. Questo non è un errore, cioè si affida l'inclusività per interposta persona, sia Sarraj che Haftar, ma Sarraj ha avuto un voltafaccia, per esempio, della brigata 604 a Sirte, e Sirte è caduta proprio per questo, cioè ignorare le specificità delle singole tribù non può essere un errore diplomatico. Non dobbiamo confondere la conferenza di Berlino con il dialogo intralibico, però mi scusi se torno su questo punto. La conferenza di Berlino non prevedeva all'inizio nemmeno la partecipazione di Haftar e di Sarraj, perché è stata pensata ed è pensata per avere il sostegno della comunità internazionale, cioè dei principali paesi coinvolti, sul piano delle Nazioni Unite. il piano delle Nazioni Unite è quello che dà il via all'accordo e al dialogo intralibico. E come si sa, lo rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Salam, propone un comitato che si occupi degli aspetti militari, 5 più 5, sì, cioè 5 da una parte e 5 dall'altra, un consiglio, diciamo, di personalità, 13 di una parte, 13 dell'altra e 13 designate direttamente dal rappresentante speciale. Quindi il dialogo intralibico inizia in parallelo, diciamo, sì, alla conferenza di Berlino, e chiaramente quel dialogo deve servire per includere tutte le parti, che non significa solo Haftar e Sarraj, perché noi sappiamo che la realtà libica è molto più frastagliata e frantumata. Chiarissimo. Dalle bozze che sono circolate, indiscrezioni anche sulla stampa, nel caso di un ok alla missione militare e anche italiana, si passa dal Parlamento? Sì, certo, per la legge, per la Costituzione italiana si passa dal Parlamento, però si tratta di due aspetti che dobbiamo approfondire insieme ai nostri partner in successione. Il primo è chi monitora il cessate il fuoco, e quindi come immediatamente, se ci sarà l'accordo sul documento finale della conferenza di Berlino e sul piano operativo del inviato speciale delle Nazioni Unite, se tutto questo accade, e ancora ci dobbiamo lavorare, a quel punto si può porre il problema di chi deve garantire il cessate il fuoco, sì, perché una missione militare vera e propria, una missione di interposizione, sì, non ci vogliono mesi per prepararla, quindi il primo passaggio è probabilmente trovare un accordo su come garantire, monitorare il cessate il fuoco. Anche in quel caso l'Italia sarebbe disponibile. Sì. Ma è la nostra presenza di quei 300 militari a Misurata, che pure hanno funzioni specifiche e diverse, non potrebbe essere anche una scorciatoia dal punto di vista parlamentare per agire immediatamente? Ma no, perché noi quella missione ha una missione di un tutt'altro genere. Lì d'accordo con le autorità libiche del governo di accordo nazionale, ovviamente, ma è lì per una funzione specifica. Noi non possiamo scegliere unilateralmente, sarebbe un errore. Dobbiamo trovare nella conferenza di Berlino il meccanismo che ci fa rapidamente determinare in quale modo la comunità internazionale, per esempio l'Europa in quanto tale, possano mettere a disposizione degli osservatori per monitorare il cessare il fuoco. Sì. Vice Ministro, un altro capitolo che riguarda quelle bozze dell'accordo che stanno circolando, in mattinata ne è circolata una versione, poi una diversa. L'ultima non è troppo poco vincolante, e al qualche analista si è già azzardato a dire che è un grosso regalo ad Haftar. Si allentano, come dire, le sanzioni, l'embargo sulle armi, non si parla di ritiro delle forze di Haftar fino alla linea, diciamo, del fronte che era quella di aprile, quindi prima della sua offensiva. Come mai, secondo lei, c'è stato questo cambiamento, ammesso e concesso che le bozze riflettano la reale tendenza dei lavori diplomatici? Non è compito mio, e penso che non sia compito nemmeno in questo momento dei giornalisti commentare delle bozze. Io so che il lavoro che è stato fatto sia in sede tecnica che in sede politica è molto avanzato, e che i 55 punti, sì, del documento conclusivo della conferenza sono largamente condivisi. Ci sono due soli aspetti che si stanno approfondendo, sì, che sono abbastanza secondari, quindi a me non risulta che ci siano grandi modifiche in corso. Naturalmente il tema semmai è come trattare il piano delle Nazioni Unite e in quale sede trattare quel piano delle Nazioni Unite, cioè per adesso si sta ragionando su un documento conclusivo che assume anche il piano operativo di Salam. Questo è un tema, sì, in discussione. Penso però che fino all'ultimo momento si lavorerà, sia domani, oggi è soltanto venerdì, sì, diciamo, abbiamo ancora tutto, sì, il sabato e anche, diciamo, una parte della domenica. Ci saranno incontri, ci, sì, saranno incontri bilaterali, ci saranno vari formati. A me non risulta però che sul documento ci siano grandi problemi. Quando diceva di 55 punti largamente condivisi anche dalle due parti in gioco, parlo di Sarraj e Haftar. Ma non sono loro che devono condividere, e qui torniamo allo stesso punto. Però chiedo scusa se insisto su questo aspetto, però è chiaro che se la comunità internazionale decide un intervento militare ci deve essere l'ok anche da parte di Serraj Haftar. No, ma non c'è questo tema nel documento, non c'è questo tema. Noi dobbiamo andare step by step. Abbiamo bisogno di consolidare il cessate il fuoco e di avere da parte di tutti gli attori regionali e non lo stesso comportamento. Finora non è successo così, sì, perché a fronte di dichiarazioni astratte sul cessate il fuoco, sull'interrompere i combattimenti, sul tornare al dialogo politico, abbiamo avuto come conseguenza che i combattimenti sono continuati e che tutti fornivano, e molti, sì, non noi, fornivano armi e mezzi ai combattimenti. Ora questo è interrotto e si deve definitivamente interrompere, sì, da entrambe le parti. Sì. È stata molto chiara. Vice Ministro, mi permetta di insistere su un punto però. La conferenza di, sì, Berlino non deve chiedere il permesso, deve consolidare un'opinione condivisa, comune degli attori esterni alla Libia. Okay. Noi ci siamo battuti per coinvolgere l'Algeria, la Tunisia, cioè per coinvolgere, sì, i paesi vicini, perché pensiamo che quanto di più i paesi vicini e la comunità internazionale condividono questo approccio, tanto più i due contendenti, diciamo, saranno portati ad accettare un processo politico. È chiarissimo. Ha citato la Tunisia, il che vuol dire che sarà presente a Berlino? L'Algeria è stata invitata, onestamente mi fa una domanda a cui non saprei rispondere, non sono sicura che abbiano invitato anche il... Infatti, perché a me risulta che non vi sia stato l'invito e leggevo le agenzie una certa irritazione da parte credo che siano ancora in sospeso questi passaggi, sì, però sono di sicuro che è stata invitata l'Algeria, sì, noi abbiamo spinto in quella direzione, sì, e questo ci fa piacere. Sì. L'ultimissima domanda, Ministro, le chiedo di sfregare la sfera di cristallo, ma dal punto di vista politico evidentemente. Che tipo di Libia vi immaginate e auspicate nel lungo periodo, cioè da 2 a 3, 5 anni? Perché onestamente, leggendo sempre queste bozze, no? Una unità territoriale, l'integrità del territorio libico, sembrano molto utopistiche. A guardare la recente storia libica dal 2011 a oggi, la demilitarizzazione delle milizie, che pure nei punti è chiaro che quella deve venire attraverso la volontà di Serraj e Haftar, che Libia auspicate da qui a 2, 3, 4 anni? Ma noi pensiamo che una Libia divisa, una partizione della Libia, non sia sinonimo né di prosperità né di pace. Per questo siamo, insieme ad altri ovviamente, per l'unità territoriale, l'integrità e la sovranità della Libia, il che non significa non riconoscere che ci possano essere delle differenze interne alla Libia, però significa un esercito, significa istituzioni unitarie, quindi la banca centrale, il Parlamento, un Parlamento, una banca centrale e un esercito. Poi dentro questo schema significa anche poter, siccome abbiamo detto dialogo inclusivo, significa anche tener conto delle autonomie, un sistema federale per esempio. Significa appunto, proprio perché deve emergere dal dialogo tra i libici, significa anche, diciamo, esercitare un po' la fantasia, però l'unità e la sovranità della Libia significa quelle cose che vi ho detto. Sì. Fantasia evidentemente intende, come dire, creatività nell'accogliere le diverse istanze dei libici, immagino. Sulle formule istituzionali, ma appunto sì, siccome noi siamo abbastanza convinti, la storia in qualche modo ci dà ragione del fatto che non c'è una soluzione semplice in quel contesto, no? La partizione non è una soluzione semplice e soprattutto non è una soluzione di stabilità e di pace e di prosperità, quindi la redistribuzione anche delle opportunità e delle risorse che quel territorio pure ha, in termini di equità e di, appunto, di equa distribuzione di quelle opportunità e risorse, passa comunque per un dialogo e passa per istituzioni unitarie, all'interno delle quali si può ovviamente rappresentare anche un pluralismo. Certo. Vice Ministro, grazie mille per essere stata con noi, non grazie, ci resta che erogarle davvero un buon lavoro. In bocca grazie, al lupo. Grazie, buon lavoro a voi. Presto. Le parole del vice ministro degli esteri Marina Sereni a poche ore dall'inizio della conferenza di Berlino. Sono tanti i messaggi che sono arrivati intanto al 349-238-6666. Allora, quanti morti ci sono stati prima della pausa di Haftar, se le tribù non vanno d'accordo e capiscono il dialogo con le armi, lasciamoli fare. Così un ascoltatore che con un linguaggio piuttosto, come dire, cruento, sostanzialmente dice: disinteressiamoci pure della Libia. Non sono assolutamente di questa opinione, credo che siamo arrivati a questo punto proprio per il disinteresse colpevole della comunità internazionale, ma in particolare anche italiano, che adesso si trova a dover mettere tante pezze su una situazione per certi versi quasi irrecuperabile. E non aver invitato la Tunisia, con un po' di puntini di domanda, ironico un ascoltatore che conclude il messaggio molto breve con un ma. È lo stesso ma che abbiamo condiviso anche noi, e l'irritazione del governo tunisino, dobbiamo tener conto che i due paesi sono confinanti, che condividono anche alcune tribù e alcune dinamiche. Insomma, la Tunisia è da sempre stato un paese importantissimo lì a fianco alla Libia. Qualcun altro dice: altro che dialogo, al pari di turchi e russi dovevamo sederci a quel tavolo e poggiarci sopra anche la pistola, facendo riferimento evidentemente a un impegno anche militare. Attenzione, quando ho chiesto al viceministro Sereni se il nostro eventuale impegno militare sotto cappello ONU dovesse passare dal Parlamento, questo è evidente, lo ha detto anche lei, dal punto di vista della nostra Costituzione e della legge italiana, io facevo riferimento e ho provato, come dire, a alludere a una scorciatoia tra virgolette, facendo riferimento proprio ai già 300 militari italiani che sono presenti a Misurata, ma dobbiamo ricordarla, hanno compito soprattutto sanitari, c'è cioè l'ospedale medico, quindi evidentemente qua un'interpretazione diversa della missione potrebbe portare a una discussione in Parlamento oppure al prosieguo di quella missione stessa senza la discussione in Parlamento. Questo sarà un punto da discutere evidentemente nei giorni a venire. Se tu non ti interessi di Libia, la Libia si interesserà di te, così Manfredo da Firenze. Mi piace questo suo modo plastico di scrivere quello che è la fotografia, se volete, ma sono assolutamente d'accordo, la Libia è una priorità e deve esserlo assolutamente. 349-238-6666, continuate pure a scrivere domande e commenti. Tra pochissimo, con Arturo Varvelli, grande esperto di Libia, cercheremo di capire quali sono le nevralgie di questi 55 punti che sono circolati grazie a una soffiata notevole, agenzia Nova si è fatto dare dalla cancelleria di Berlino un po' di punti, sono stati cambiati nel corso delle ultime ore e insomma ci sono un po' di punti su cui riflettere. Lo ripeto ancora una volta, questo weekend, in particolare domenica, si potrebbe scrivere una pagina importantissima per la Libia, con quali esiti chissà. Intanto facciamo una piccola pausa, l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Allora, facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare. E viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti. Così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Scegli carta Oro Business American Express e scopri i vantaggi per il tuo business. Richiedila su americanexpress.it per te fino a 250 euro di sconto sulle spese aziendali. Messaggio promozionale info su americanexpress.it/business. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. In internet girano informazioni o notizie che ledono la tua reputazione o quella della tua azienda? DigitalNex ha la soluzione. Con il nostro team di avvocati e di informatici lavoriamo per cancellare o modificare contenuti negativi nel web su di te o sulla tua azienda. Vai su digitallex.it. digitallex.it. Radio 24 e Il Post ti invitano a un doppio appuntamento nelle concessionarie Renault, dal vivo e in diretta con il pubblico. Dalle 17 alle 18 l'approfondimento giornalistico a cura di Luca Sofri con Spiegato Bene Live. E dalle 18.30 l'attualità senza tabù e senza censure della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossima tappa, Modena, il 29 gennaio presso la concessionaria Renault Franciosi. Per partecipare iscriviti subito su lazanzaratour.renault.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. A poche ore dall'inizio della conferenza di Berlino, la domanda che tutti si fanno è: servirà qualcosa? Non è forse troppo tardi? E soltanto il tempo ci darà la risposta. Lunedì saremo qui per i commenti. Quest'oggi possiamo solo fare illazioni, tentare di sussurrare qualche timida analisi, partendo da cosa? Beh, innanzitutto dalla lista dei paesi invitati. Uno degli assenti illustri, forse non a livello geopolitico stretto, è la Tunisia, ma il vicino paese della Libia, quello da cui la primavera del 2011 poi è sostanzialmente partita. Beh, quell'assenza per il momento è abbastanza pesante. Un po' di messaggi degli ascoltatori, poi cercherò di enumerare quelli che sono i punti tra i 55, non tutti, state tranquilli, facciamo una sintesi. Un po' di commenti degli ascoltatori arrivati al 349-238-6666. Unione degli Stati Africani è l'unica soluzione per Libia, Somalia, Sudan, Eritrea, Zimbabwe, Zambia, Mali, eccetera, eccetera, ma forse fra 200 anni. E poi c'è un emoticon in cui si incrociano le dita, così un ascoltatore. Intanto il summit doveva tenersi a Roma, non a Berlino, o no, chiede retoricamente un altro ascoltatore. Un'altra domanda invece ci porta sul terreno: sapete dirci nulla dell'impiego di migranti nelle battaglie in Libia? Vi sono un po' di fonti giornalistiche, tra cui alcune britanniche, che fino all'aprile dell'anno scorso dicevano che alcuni migranti dei centri sarebbero stati reclutati a forza per i combattimenti. Se intendiamo migranti invece in un'accezione molto molto più ampia, vi abbiamo dato conto proprio ieri di quello scoop del Guardian, per cui vi sarebbero almeno 2000 siriani che combattono pro Turchia in territorio libico, oltre naturalmente a tutti gli altri contendenti, tra cui i mercenari della Wagner russi, conteggiati in un 600 circa elementi, e altre due società di sicurezza che sarebbero pronti a mandare nuovi elementi. Allora, intanto cerco di riassumere quelli che sono i punti in discussione sui quali i grandi attori internazionali dovranno mettersi d'accordo. Un cessate il fuoco permanente, una demilitarizzazione delle milizie, l'embargo di armi, anche se l'embargo di armi nell'ultima versione, la seconda diciamo che è circolata, è stato molto ammorbidito. Il rifiuto di ingerenze straniere, anche quello è stato mitigato, e qua qualcuno dice attenzione che questo è davvero un regalo ad Haftar. La nascita di un nuovo governo unificato per tutta la Libia, il che probabilmente potrebbe passare, secondo una lettura analitica molto veloce, per il bye bye di Fayez al-Sarraj. Poi la chiusura dei centri di detenzione dei migranti e infine un intervento militare sotto il cappello europeo. Ma oggi i giornali riportavano di un primo intervento di una forza di interposizione civile, il che sarebbe molto più veloce, lo avete sentito. Intervenire militarmente, oltre che dal punto di vista logistico, deve essere ratificato, deve avere un cappello internazionale che ci consenta di fare tutto questo passaggio. Allora, adesso vi propongo di fare una piccola pausa dalla politica, lasciamo un attimo Berlino che sta scaldando i muscoli, andiamo sul terreno, andiamo a Bengasi. Vi faccio sentire la voce di Tamila Al-Ghanal, giornalista di Libiana FM, o meglio, più che giornalista dovevi dire animatore di radio, un po' detta alla francese, un po' DJ, un po' produttore musicale. Vi regalo un piccolo ricordo personale, non per autoreferenzialità, ma proprio nel 2011, Bengasi, quando esplodeva la primavera araba, visse davvero una primavera dal punto di vista culturale, del rap, della musica, dei graffitari, dell'icona, dell'immagine visiva, davvero dell'arte visiva, scusate, davvero fenomenale. Poi però con le milizie, con i gruppi islamisti, tutto quello finì. Sentiamo com'è nata Libiana FM, è un po' la nostra sorellina, è una radio, con quali obiettivi? I've had an established career in music production since 2003. Io ho una carriera consolidata nella produzione musicale dal 2003. Nel 2011, dopo lo scoppio della rivoluzione, tutti noi abbiamo assistito ad una esplosione di talenti, band musicali, artisti di tutti i tipi. E io ho fatto parte di quell'ondata, ero nel mezzo di quella situazione. In quel momento, per la prima volta nella storia della Libia, è stato possibile ottenere un permesso per aprire una radio privata. Prima non era possibile, perché era tutto nelle mani del governo. Ho deciso di cogliere questa opportunità e di investire in una radio privata in Libia, anche per provare ad organizzare tutti i movimenti artistici che stavano emergendo in Libia, ma anche per produrre musica di nuovi artisti, nuove band, nuovi talenti, e al tempo stesso per trasmettere in Libia musica dal resto del mondo, una cosa che non sarebbe stato possibile fare in precedenza. Abbiamo deciso, in un momento di grande instabilità, di dare vita ad una stazione musicale, di fare qualcosa di nuovo per la scena musicale, con uno studio di registrazione che non fosse finanziato dal governo e né da altri. Qualcosa di moderno, una finestra sul mondo, ecco. E al tempo stesso un'opportunità per gli artisti libici di farsi conoscere al resto del mondo. La nostra missione è essenzialmente di tipo culturale. Vogliamo creare un movimento culturale e costruire un ponte tra la Libia e il resto del mondo, ma anche diffondere i valori universali della cultura e della creatività per aiutare i giovani della Libia. Questa è la missione di Libiana FM. So basically that's our mission. La voce di Tamin Al-Ghanal, Libiana FM, uno dei sintomi, dei fiori, se volete usare un'espressione un po' elegiaca, di quella primavera araba che sembrava nel 2011 esplodere, poi in realtà si è trasformato in un autunno. E adesso, a sentire la voce di questo produttore musicale, almeno a Bengasi non ce la si passa poi tanto male. Tra pochissimo torneremo a Bengasi, ma andremo anche a Tripoli, dove la situazione è un po' più difficile. Fatemi leggere un sms prima, che è appena arrivato, al 349-238-6666. Un'ascoltatrice, se non erro, Vitali da Padova, che lavora con nordafricani, insomma rivendica una certa esperienza, e dice sostanzialmente si pensa alla popolazione libica con il pensiero occidentale, ma questo è sbagliato. Riassumo e sintetizzo il messaggio: solo una dittatura forte ma necessaria per il loro mondo può tenere quel paese in pace e unità. La storia l'ha dimostrata, era un male necessario. Adesso invece ci sono morti e migranti. Auguri per l'Europa, conclude così in maniera sarcastica questa ascoltatrice. Proviamo a tornare su quei 55 punti, proviamo a tornare su questo documento che dovrebbe essere firmato alla conferenza di Berlino, e lo facciamo con Arturo Varvelli. Buongiorno Arturo Varvelli, ben ritrovato qui a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio. Con una nuova veste, perché adesso Arturo dirige l'ufficio di Roma del European Council on Foreign Relations, continua a occuparsi naturalmente di Libia. Ci siamo sentiti prima brevemente, Arturo, per commentare insieme, no, questa bozza che sta circolando, che, lo ripeto, bisogna vedere se i lavori adesso non l'hanno già sopravanzata, nel senso che si stanno stringendo nuovi patti, nuovi accordi, insomma si lavora. Qual è l'aspetto che ti colpisce di più? A me, lo anticipo, è la morbidezza soprattutto sulle ingerenze straniere, l'embargo di armi, tutta l'attività sanzionatoria in qualche modo, non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente, mi pare che queste bozze di accordo che circola, che poi, come giustamente è stato detto, forse sarà anche parzialmente diversa o avrà correzioni importanti, sì, però mi pare che sia una sorta di tappeto rosso che viene steso ad Haftar. Cioè, mi sembra il fatto che la comunità internazionale prenda chiaramente coscienza che Haftar non è più, come dire, un problema, ma è parte della soluzione. Cioè, proviamo a verificare se Haftar è veramente una parte della soluzione del problema. La comunità internazionale è in grande preponderanza dalla parte di Haftar, oppure con una neutralità che ha consentito ad Haftar sostanzialmente di arrivare alle porte di Tripoli, e quindi sostanzialmente è un po' difficile, come dire, arcinarlo ora. Non viene presa nessuna decisione contro Haftar. Sì. Haftar non deve neanche arretrare sulle posizioni precedenti al famoso 4 aprile, sì, dello scorso anno, quando mosse verso Tripoli. Sì. E questo è incredibile, quindi, Arturo Varvelli, questo è veramente incredibile. E quindi prendiamo atto che Haftar è un elemento essenziale, proviamo a formare, così c'è scritto, diciamo, a grandi linee nell'accordo, proviamo a riformare un governo di unità nazionale, il che vuol dire che salutiamo Serraj, sì, troviamo un altro nome che non potrà che non essere gradito alle potenze che Haftar appoggia con un, diciamo, beneplacito del resto della comunità internazionale, dagli Stati Uniti alla Russia, all'Europa, eccetera. Lo mettiamo a capo di un governo di unità nazionale e sostanzialmente abbiamo ribaltato la legittimità. Haftar rimane un attore legittimo perché in qualche maniera lui rimane a capo dell'esercito libico, nazionale libico, e ha il mandato in qualche modo abbastanza chiaro da quanto si legge di fare la pulizia delle milizie. Sì, sì, questa famosa lotta al terrorismo, peraltro esatto. Nel documento si parla anche di non proprio smallentamento ma smantellamento, demilitarizzazione delle milizie. Allora è chiaro che si sta guardando a Tripoli perché... Sicuro, cioè noi stiamo di fatto chiedendo alle milizie di smobilitarsi mentre sono sotto l'attacco di Haftar. Sì. Capite che dall'altra parte questa Serraj potrà anche firmare magari questo accordo. Ma poi, come dire, è molto difficile che torni in patria, che questo accordo venga accettato da queste milizie. Certo, quindi, questo è chiarissimo. Insomma, la conferenza di Berlino, se i 55 punti racchiudono quelli più nevralgici, ben sintetizzati da Arturo Varvelli, e insomma rischia di essere un clamoroso insuccesso, ma per la comunità internazionale, direi. Arturo, stai con me, andiamo a sentire un attimo le strade italiane, perché dopo ho l'ultima domanda per te. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questo venerdì, in cui mancano poche ore alla conferenza di Berlino, stiamo provando a ragionare sui pochi elementi che abbiamo. 55 punti, una bozza di accordo che sta circolando grazie a uno scoop dell'agenzia Nova, che dalla cancelleria ne ha ottenuto una copia e di cui avete trovato anche un po' di esempi sulla stampa di quest'oggi, solo che poi è circolata una nuova bozza in cui venivano mitigate alcune sanzioni. Soprattutto stiamo ragionando con Arturo Varvelli, lo ricordo, dirige l'European Council on Foreign Relations di Roma, che ci stava mettendo di fronte a un grandissimo paradosso. Prova a ricapitolarlo, Arturo Varvelli, ma a girarti uno successivo passo logico che potremmo fare. Sostanzialmente questa conferenza di Berlino va a legittimare quello che era il generale ribelle, adesso abbiamo anche smesso di chiamarlo generale ribelle, è diventato l'uomo forte della Cirenaica, che invece di essere stigmatizzato, perché ricordiamo, attenzione, che Tripoli al-Serraj è riconosciuta dalle Nazioni Unite, si siede alla conferenza di Berlino con più peso addirittura di Serraj per almeno due motivi. Primo, è alle porte di Tripoli a tutti gli effetti. Secondo, ha ricevuto, e così rispondo a un ascoltatore al 349-238-6666, foraggiamenti di varia natura, i soldi dall'Arabia Saudita, i mercenari dalla Russia, l'aviazione degli Emirati Arabi Uniti, eccetera eccetera eccetera. Il punto però, Arturo Varvelli, è questo: noi abbiamo uno schiaffo in faccia a tutti gli effetti alle Nazioni Unite, cioè una conferenza internazionale di alcuni paesi, alcuni anche strani, perché verrebbe da dire, e l'ha detto un ascoltatore, ma perché la Repubblica del Congo va alla conferenza di Berlino e non ci va la Tunisia? Ma detto ciò, un consesso internazionale molto importante, in un momento super delicato, rimette la giacchetta nuova al generale Haftar, lo fa sedere da pari a Serraj, possibilmente condannando a morte politicamente al-Serraj e sconfessando così le Nazioni Unite. Qua l'ONU proprio non conta più niente a questo punto, non è un grande paradosso questo? Sì, è un paradosso, ma dobbiamo considerare che le Nazioni Unite sono formate dalle nazioni che lo compongono, non hanno, come dire, un'anima propria, sono un soggetto multilaterale, quindi vivono delle politiche che gli attori principali all'interno delle Nazioni Unite attuano. E quindi la tensione in questo momento è sicuramente verso un campo rispetto all'altro. Il problema, secondo me, è la realizzabilità di questo piano. Cioè noi stiamo sostanzialmente dando questa nuova chance ad Haftar, stiamo cercando di imbrigliarlo all'interno di nuovo di un contesto ragionato, multilaterale, che lo sposti dal piano della guerra al piano della politica. Non è detto che questo funzioni, perché tutte le volte che questo tentativo è stato fatto abbiamo ottenuto il contrario, ossia Haftar ha accelerato la guerra, ha accelerato verso il conflitto e si è trasformato ulteriormente in un attore militare. Quindi stiamo rischiando di nuovo questa cosa, e questo lo rischiamo perché in realtà nessuna forza, a parte turchi nelle ultime settimane si sono mai opposti a Haftar. E quindi ci troviamo in questa situazione. Ci troviamo in una situazione che sta di fatto cristallizzando nella migliore delle ipotesi la situazione attuale, nella peggiore dando un assist ampio e importante al generale Haftar per trovare ad esempio un casus belli all'interno dell'accordo che verrà firmato a Berlino, per dire che i miliziani di Tripoli non hanno rispettato gli accordi presi e quindi muovere ulteriormente guerra. Certo. O per esempio con una carta in mano. Certo, con questa investitura internazionale che lo è a tutti gli effetti, paradossalmente più efficace di quelle dell'ONU, sottolineano alcuni ascoltatori al 349-238-6666. Grazie mille. Arturo Varvelli, lo ricordo, è il direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma. Arturo, buona giornata, buon lavoro e direi un tranquillo weekend di analisi, e poi mi sa che ci risentiamo dopo Berlino. Sarà così. Grazie mille, grazie. A presto. (Sussurra) 349-238-6666. Devo dire che alcuni ascoltatori sono eccezionali. In pochissimi caratteri rendono in maniera icastica quello che è stato un lungo processo politico. Questo ascoltatore esordisce con long story short, piccola storia breve. Gli limiamo le unghie ma lo rendiamo presentabile, riferendosi evidentemente ad Haftar. Cosa importa? Non sono le Nazioni Unite, non sono mai servite a nulla, hanno sempre solamente creato disastri e portato avanti questioni per decenni. Sono un posto dove si spendono miliardi senza tenere risultati, così amaramente commenta un ascoltatore. Cambiare tutto per non cambiare nulla in Libia tranne la vita dei poveri libici, così Sam, e su questa ragione vi faccio sentire a questo punto, abbiamo pochi minuti prima della chiusura, almeno volevo farvi portarvi anche a Tripoli, perché però non ce la facciamo coi tempi. Roberta Visani, ce la facciamo andare a Bengasi? Facciamo sentire un attimo, perché questa è magari più inusuale, a Tripoli non si sta benissimo. Andiamo a Bengasi, la vita quotidiana in questi giorni, perché quella è una zona molto poco raccontata della Libia. Ascoltate ancora Tamin Al-Ghanal, produttore musicale, l'autore sostanzialmente della nascita di Libiana FM. Di sicuro in questi giorni le cose vanno molto meglio rispetto a prima. Quando abbiamo iniziato a trasmettere, la situazione non era molto stabile perché c'erano un sacco di milizie, di gang criminali a Bengasi. La città non era sicura e non c'era un'unica organizzazione che garantisse la sicurezza a Bengasi. Le cose erano molto difficili anche perché c'erano molte milizie islamiste radicali che erano fortemente contrari a quello che facevamo. Noi trasmettiamo musica e loro sono contrari a tutte queste cose. È stato un periodo molto difficile. Due nostri colleghi, Sami e Tafik, sono stati uccisi. Gli hanno sparato mentre si trovavano in macchina e anche molti altri nostri amici sono stati uccisi. Le cose erano molto difficili in quel periodo. Abbiamo iniziato a lavorare da diverse località segrete, spostando ogni volta le attrezzature, spesso camuffandoci in abiti femminili. Le cose così. Ad un certo punto abbiamo dovuto creare un cloud per fare in modo che ciascuno di noi potesse lavorare da casa. Ma adesso, dopo che il Libyan National Army, guidato dal generale Haftar, ha liberato Bengasi e ha iniziato a mettere in piedi un'organizzazione, le cose sono molto cambiate. C'è una sorta di governo organizzato nel paese. Puoi rivolgerti ad un'autorità se ci sono problemi, ad esempio con le gang. C'è maggiore sicurezza. Ma voglio dirle una cosa. Anche nei momenti peggiori abbiamo sempre continuato a trasmettere musica e a produrre musica. Forse non ha mai visitato la Libia in passato, ma noi siamo un popolo molto mediterraneo. Amiamo il cibo, amiamo la musica, soprattutto qui a Bengasi. Non abbiamo mai sentito l'urgenza o subito pressioni per diventare una radio politica. No, noi ci siamo sempre occupati solo di musica, di arte, di creatività. E grazie a Dio ora le cose vanno molto meglio. Prima le persone non uscivano di casa, stavano a casa ed erano spaventati. Oggi vivono una vita normale al 100%, senza nessun problema. Perentoria, Roberta Fisani ci ricorda che il tempo è scaduto. Grazie mille a tutti voi per essere stati all'ascolto. Alla squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è domani col meglio di e lunedì alle 16. Buon weekend.